Signore, le tue parole mi colmano di gioia. E chissà perché davvero si realizzano queste profezie. Perché pian piano, di ora in ora, siete tornati indietro di qualche decina d'anni. Non intendevo dirvelo per scherzo, quando la prima mattina ho detto: recitiamo le preghiere dei bambini, quelle che abbiamo imparato quando eravamo fanciulli per la prima comunione. Non era una barzelletta, non era un complimento senza senso. Era un programma. Siamo venuti quassù per tornare indietro di anni e anni. Siamo cresciuti troppo, troppo. O gli anni in cui avevamo il cuore da fanciullo. Lo ripeto sempre io, non ho mai trovato tanta attenzione alle parole del Vangelo, alla narrazione delle parabole, come quando qui a Bosco, giovanissimo prete, facevo ore e ore di catechismo, di dottrina cristiana ai fanciulli. Non erano mai stanchi, mangiavano le parole con gli occhi, con quegli occhi limpidi, desiderosi, mai stanchi di sentir parlare di Gesù. Ecco, in questi giorni sta avvenendo questa metamorfosi stupenda. Oh, ma non siete mica più ragazzi. Nello spirito siete tornati indietro, come giovanetti, fanciulli nel cuore. Signore, io ho fame delle tue parole, e le tue parole mi colmano di gioia, come allora quei bambini si sentivano colmati di gioia in quelle lunghe ore di catechismo. Passavano le ore in un baleno perché quei fanciulli dal cuor bello ascoltavano e si sentivano colmati di gioia. Signore, la mia anima è colma di gioia. Le tue parole mi hanno colmato di gioia. Conserviamoci fanciulli nel cuore. Siamo cresciuti troppo. Torniamo indietro. Siamo tanto complicati adesso, pieni di grattacapi e di problemi veri e fittizi. Abbiamo fatto troppa strada rincorrendo il vento, rincorrendo le ombre. Sì, abbiamo dato troppa importanza a cose che importanti non erano, e così abbiamo sciupato tante paia di scarpe inutilmente. Abbiamo consumato tante energie fisiche, psichiche e morali per correre dietro alle farfalle, alle fanfaluche, alle cosiddette vanità delle vanità, che niente contano, niente valgono, ma fanno perdere tanto tempo e spesse volte fanno matto il cuore e pazza la mente. Siamo cresciuti troppo. Torniamo indietro.